può fare, io lo giro subito. Messaggi SMS 349-238-6666, telefonate 800-24-0024. Ovviamente oggi giocheremo a tutto campo tra Italia e Stati Uniti, con Federico Buffa, con Coach Peterson che sta arrivando. Federico, però ti giro questo messaggio: che futuro ha Phoenix? Per poter ricostruire occorre attendere 2010, scadenza di Shaq e Nash, però con questo roster niente lottery, e quindi futuro di Phoenix? Scrive Giacomo, domanda Giacomo, ben informato. Ciao Giacomo, chiunque tu sia, e direi sostanzialmente c'è una di quelle squadre, cioè la nona che non va ai playoff nella zona ovest del tabellone degli Stati Uniti, si presenta davanti al plotone esecuzione e la fan saltare. Sia Dallas sia Phoenix, se non vanno ai playoff, perché ne vanno 8 delle 9 in corsa, e prima o poi Utah recupera Boozer, e io direi che una di quelle due potrebbe non andare ai playoff. Tra Dallas e Phoenix, il plotone di esecuzione ne fa saltare una, per il proprietario delle due squadre ha detto: io con i soldi che ho messo a disposizione non faccio il nono. E direi che Steve Nash ha un destino altrove, possibilmente a Toronto o a New York, secondo me più Toronto che New York, per quello che riguarda Shaq. Ma quello che dice lui mi sembra sintetizzato in: faccio yoga e sono il più brutto della classe. A lui non è che gliene freghi molto. Coach Peterson, buongiorno. Ciao coach, buon anno. Ciao ragazzi, Federico Buffa, il fiorello di Sky, buongiorno. Ciao coach. Ehi, coach, per te sempre il numero due. Tu vedi, sì, è chiaro, se sei numero due, ok. Però dico prima io, eh. Stiamo scherzando, comunque è un'analisi perfetta. Federico Buffa ha asfaltato l'NBA lì, cosa vi posso dire io? No, tu cosa ci devi dire? Invece partendo dal basket italiano, poi andiamo anche sull'NBA tutti insieme. Però nel basket italiano, con la faccia americana, con la faccia straniera, con la faccia che vuoi, sono due italianissimi le stelle della notte europea. Si chiamano tutte e due Marco, Mordente a Milano e Carraretto a Siena. Yeah. Non male, eh? Esatto, sono stati assolutamente i protagonisti. Ieri sera c'è il Carraretto che... Non sono i giovanissimi, giovanissimi, hanno l'esperienza loro in Serie A, anche in Eurolega, ma quando, come dicono in America, è suonata la campana, da grandi pugili sono usciti da loro angoli e hanno messo pugni di capo, veramente hanno, diciamo, salvato veramente la situazione. Siena era già messa bene lo stesso, ma sai, battere Panathinaikos non è uno scherzo, e Milano con questa vittoria qui... dopo giocano con Panionios, è possibile tutto, quindi sono qui a Milano, la città capitale del mondo delle ambulanze, però adesso basta. E comunque mi piace per tutti e due, perché sono due ragazzi che hanno aspettato il loro momento e hanno saputo sfruttarlo. Non è facile. Siena peraltro ancora più lunga nel suo roster, ha inserito McDonald, che è un giocatore certamente utile, però coach, come dicevi tu, Siena sembra proprio quella squadra in cui tutti sono consapevoli del loro ruolo, da Carraretto a Res, quando ha spazio, insomma, sembra ancora migliore rispetto all'anno scorso. Well, e questo è difficile da dire, perché l'anno scorso hanno vinto lo scudetto e sono andati a Final Four di Eurolega, quindi devono superare quello che hanno fatto l'anno scorso, sono in corso per farlo, perché sono imbattuti in campionato, asfaltano tutti, sono andati a Roma a dar 20 alla Roma, quando Roma era la seconda forza del campionato, e forse lo è di nuovo adesso che si sveglia un attimo, e hanno perso ieri, però in campionato stanno marciando benissimo, quindi in Italia assolutamente. Fra l'altro, forse lo sa anche Federico, forse è stato anche interpellato lui, mi ha chiamato Superbasket chiedendomi se Siena vince il terzo scudetto come Milano negli anni 80, come la Virtus Bologna negli anni 90, se viene paragonato a queste due dinastie, se vogliamo chiamare così. Ovviamente manca la parte europea, però loro sono Siena quest'anno, non dico più forte dell'anno scorso di giocatore di rosa, ma forse in amalgama, il fatto che sono ancora un altro anno insieme e ne so io qualcosa di questo, forse in questo senso sì, sono più forte dell'anno scorso. Fede. Però coach, ai tuoi tempi le tue avversarie erano un po' più competitive, eh? Sì, non voglio dire, hai 1000% ragione, cioè, è troppo facile per me parlare della mia squadra, D'Antoni, Meneghin, Macadou, eccetera, che se gioca oggi in Italia credo che non ci sia per nessuno, questa è la mia opinione, ma dico anche la Virtus di Bucci Messina, di Danilovic e compagnia, di Rigodò, di Bruno Monti, di Nesterovic, tutta quell'epoca lì, ma anche loro se giocano oggi, io penso che loro facciano più o meno quello che vogliono. È chiaro che i tempi cambiano, la bravura di Siena e che hanno vinto in questo contesto qua, adesso vediamo cosa fanno in Europa. Sì, Federico, però in America per costruire una dinastia ci vogliono tre anelli, no? Grosso modo. La chiamano Dynasty dal terzo. La chiamano Dynasty dal terzo. È il problema di Boston Celtics. I Boston Celtics, per essere una grande squadra, devono rivincere, se no sei una galassia, sei un bengala nella notte, nella storia americana. Apriamo questo capitolo, già che ci siamo. Andiamo ovviamente a schema libero. Boston Celtics, sesta sconfitta in 8 partite. Secondo me è un raffreddore di stagione. Tu cosa dici? Lo è, però chiediamo al coach che ne sa qualcosina di più di gestione di uomini. Ovvero sia, se vinci e vieni da una stagione come quella dell'anno scorso e hai vinto con una squadra che ha usato un voltaggio fisico e psichico spaventoso, l'anno dopo devi gestire la squadra. Ma se hai Kevin Garnett, che è una pila elettrica, la squadra ha iniziato la stagione successiva con la stessa emotività di come l'aveva terminata, ma è una stagione a 82 partite, a un certo punto hai un down, e se la tua panchina, in questo momento la panchina dei Celtics non è la panchina di una squadra da titolo, non ti supporta quando i 3, 4, 5 della rotazione vanno giù di livello, nell'NBA ti può succedere un periodo del genere. Stanotte giocano contro Cleveland, è uno showdown dell'Est, stavolta Boston deve vincere per forza. Coach. Well, Fede fa un'analisi perfetta qui, e che secondo me lui ha toccato l'argomento subito, il minutaggio di giocatori chiavi, perché mi ricordo, c'era Fede, penso a Roma l'anno scorso, quando sono venuti a giocare contro Toronto, la primissima partita amichevole dell'anno, hanno sputato sangue, dico, e tutti i Big Three hanno giocato in quella primissima amichevole, non dico la stagione, 40 minuti a testa, quindi hanno preso molto seriamente ogni impegno l'anno scorso, hanno speso un minutaggio al di là di ogni realtà, e forse hanno bisogno, come dice lui, una panchina più consistente, ma tutte le squadre, guardi gli Knickerbockers che ieri fanno 6 su 24 l'ultimo quarto di gioco, perché che non ci sono, come dicono in America, the bodies, i corpi, hai capito, da mettere in campo, e prima o poi la candela si spegne, e le squadre che sono più profonde, che hanno la panchina più lunga, che sarebbe i Los Angeles e altre squadre, forse alla fine per i playoff avranno un piccolo vantaggio. Io sono curioso di sapere, Federico, cosa pensi dell'evoluzione di Belinelli, del suo minutaggio, delle sue prestazioni e del fatto che abbia difeso anche per quel che poteva fare su Kobe Bryant, limitandolo tra virgolette a 21 punti. No, ma poi sembra che faccia l'agente speciale ormai, no? Fa l'agente speciale difensivo. Don Nelson si è inventata anche questa. Signori, non do opinioni su Golden State Warriors perché sono delle parodie del gioco della pallacanestro, e se non le dai in negativo non le puoi dare neanche in positivo. Fede, anche io che sono dallo stesso stato di Don Nelson, ho detto, cioè, però io sono dal lago Michigan e lui dal Mississippi, da Rock Island, quindi sono due corpi d'acqua, ma scusami, un lago non è un fiume, ok? Quindi è detto che lui veramente è inconcepibile, lui come allenatore, cioè, fa delle cose che, cioè, sceglie Belinelli, poi le sbattere in panchina, è una prima scelta. Per un anno e mezzo adesso li gioca 40 minuti a partita. E uno che viene a dirmi che Belinelli non è un difensore, è uno che non ha visto Belinelli giocare. È un giocatore che l'ho visto vincere lo scudetto a Milano marcando un altro playmaker, McCullough, strappando la palla della vittoria, non della vittoria, ma quello che erano sotto di 6, strap, segna Belinelli da 3, sono meno 3, ruba la palla da McCullough, dà la palla a Douglas che pareggia, poi più avanti Douglas ha fatto canestro. Cioè Belinelli, se si mette da farlo, è un signor difensore, non ci sono dubbi di questo. E Don Nelson, che è molto preoccupante, cioè, non devo dire niente perché ho la mia età, però forse Don Nelson non so cosa dire proprio. È una cosa che è sconcertante quello che fa lui. No, molto preoccupante, mi è piaciuta. Molto preoccupante su Don Nelson, mi è piaciuta. Resta il fatto che secondo me a tutte e due i nostri ragazzi farebbe bene cambiare aria. Bargnani a Toronto, dove non trova collocazione, lo sbattono di qui e di là, adesso fa il 3, adesso fa il 4, adesso fa il 5, fa il centro, fa il panchinaro, fa il tiratore, lo mettono ovunque, e lui nonostante questo sta riuscendo a trovare anche una discreta continuità. Sì, se non sbaglio 20 più 8 nelle ultime 6 di media, tra una cosa, sì, una cosa del genere. Però io penso che ad entrambi farebbe bene cambiare ambiente, Federico. E però l'NBA è un posto strano, e se ti mandano in un gulag tipo Sacramento, se lo scambiano per Salmons, per esempio, che è un giocatore un'ala piccola sul mercato che potrebbe far comodo a Toronto, che sta cercando un 2-3 che possa creare dal palleggio e abbia un certo tipo di fisicità difensiva, obiettivamente. E poi se ti mandano a Sacramento, dove c'è Kenny Nett che non si ricorda neanche il tuo nome dopo 2 settimane, figurati il primo giorno, che cosa ne viene fuori? Lì corre il rischio di diventare un altro Milicic, che c'ha una clessidra sulla testa con la sabbia che sta scendendo, che è il countdown al ritorno in Europa ed è la seconda chiamata assoluta di un draft e non di 20 anni fa. Cioè bisogna anche vedere dove finisci. Io penso sempre che ci sia un imprinting alla Conrad Lawrence. Dimmi dove inizi nell'NBA e ti dico che cosa diventi. Per esempio, uno dei più grandi giocatori che ha allenato il coach, vale a dire Joe Barry Carroll, in America era chiamato JB Just Breathing, che respirava appena. Grazie, è arrivato da Purdue, prima chiamata assoluta, ed è andato a Golden State di allora, che ne è molto diversa da quella da adesso, dove i primi gli hanno insegnato che l'NBA era un fatto di amministrarsi. Dai, dai, facciamo vedere 2 o 3 cose, difendiamo ogni 2 partite, ci gestiamo, tanto ci sono soldi per tutti. Se invece finisci in un altro contesto di pallacanestro, ti insegnano a giocare con delle logiche che alla San Antonio Spurs, e allora la tua vita, l'imprendi che è stato diverso e può cambiare. Io non so quale sia la situazione di Andrea, mi sembra che Andrea, quando approccia aggressivamente la partita, sia un eccellente giocatore NBA, però la sua pallacanestro ha molti vuoti, troppi vuoti. La sua posizione in campo è sempre troppo eretta, non riesce a creare un gioco intermedio, non è continuo quando mette palla per terra, le sue soluzioni a spalle canestro sono ancora piuttosto limitate. È un giocatore in crescita, avrebbe proprio bisogno di andare in una grande scuola di pallacanestro. Cosa ne pensi? Innanzitutto, cioè, no, quello che dice Fede non fa una grinza, e dipende dove fa lui, non è solamente cambiare, ma cambiare dove. Ma devo dire questo, anche Fede e io siamo dello stesso parere che deve piegare il corpo di più, non essere sempre eretto, soprattutto in difesa dove lui casca nei falli. Ma bisogna dire, da quando Jermaine O'Neal è fuori, penso per 5 partite, Fede mi correggerà, forse sono 6, ma diciamo 5, Bargnani ha fatto una media di 20-21 punti a partita, sta prendendo 4-5-6 rimbalzi a partita. Cioè io faccio la firma se Bargnani fa quello da lì, da qui alla fine dell'anno, di quelle due medie lì di 20 punti e 6 rimbalzi, dico accetto in pieno questo. È strano che, avendo trovato un ruolo fisso, anche certamente Fede ha letto l'articolo di Massimo Lopez Pegna sulla Gazzetta dello Sport, dove Bosch dice che Bargnani sta molto più tranquillo giocando centro, non dovendo marcare le ali piccole e quelle cose. Cioè Bargnani come pivot è veramente un pochettino, no? il Dirk Nowitzki dei poveri, se posso dire questo, e quindi forse a Toronto solo adesso sta trovando la sua dimensione, sì, questo qui. Se io sono Toronto, anziché preoccuparmi di cedere Bargnani, io penso a cedere Jermaine O'Neal, anche se l'ha appena preso, cioè, e cercare questo a 2-3 tiratore, non so cosa dire, però ovviamente ognuno fa le cose alla sua maniera, e Gherardini e Colangelo sono due geni in queste cose, loro sanno costruire le squadre, abbiamo visto Gherardini in Italia, Colangelo a Phoenix e a Toronto, quindi non insegno assolutamente niente a loro. Comunque Bargnani sta giocando meglio, e anche Bellinelli, sono contento. Sarò veramente contento quando Danilo rientra dal suo problema delle schiene. Sa che è lunghetta. Dimmi Fede. No, volevo chiedere al coach, ma quei 20 punti all'interno dei risultati di Toronto sono dei good 20s o dei bad 20s? Perché 20 ci sono, ma good 20s o bad 20s? No, evidentemente sta giocando benino, ma sai dove, ovviamente Fede non è che parla con la gente continuamente, però leggendo i tabellini, io voglio leggere il plus minus come il punteggio con lui in campo, anche se il plus minus, come sai tu benissimo, inganna qualche volta, ok? Cioè uno può fare le feste con la più o meno, però sembra che lui stia facendo un contributo solido. Il problema di Bargnani è che se lui fa 20 punti nella partita, ne ha 15 all'intervallo, dopo l'intervallo ne fa 5. Per qualche motivo si assente dal gioco, magari per i falli, magari qui, magari là. Ma secondo me, se questo ragazzo gioca i suoi 35-36 minuti a partita con la sua responsabilità e non ha paura di uscire dopo uno sbaglio, e io che ho fatto allenatore ti dico, la cosa che distrugge è un giocatore e la paura di sbagliare. Dicono, oddio, se tiro sbaglio mi tolgono, oddio, se forse questo passaggio sbaglio mi tolgono. Cioè, se lui va in campo tranquillo e sa che avrà i suoi minuti, ovviamente non sedendosi su questo fatto, ma giocando, come diceva Federico, con le giuste motivazioni, cioè lui sta emergendo adesso. Io vorrei vedere Toronto aspettare la fine di quest'anno prima di decidere, bocce ferme, come ci credo io sempre, anche Bellinelli. Coach, grazie, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao bambini, ciao Fede, bocca al lupo a tutti. Altrettanto, okay? Coach. Grazie, ciao, grazie ciao. A Coach Peterson. Palla spicchi. Ecco che torniamo sempre con noi fino alla fine dell'ora, Federico Buffo, ovviamente qui con me Flavio Suardi come ogni venerdì, e in linea un fresco trentenne a cui faccio subito gli auguri. Marco Mordente, buongiorno, ciao Marco. Ciao, ciao a tutti. Auguri, ma soprattutto buon compleanno naturalmente, complimentissimi per la partita di ieri, ma soprattutto una curiosità, una preoccupazione mia. Ma Hamilton l'hai rincontrato ieri sera dopo la partita o no? Perché... dovete sapere, per chi non l'ha vista, Milano Real Madrid, e si è perso qualcosa, senz'altro una partita di rara intensità emotiva in cui Mordente è stato il cuore della vittoria di Milano. E beh, c'è stato questo episodio dell'espulsione di Hamilton dopo un duro faccia a faccia proprio con il nostro eroe, e aveva la faccia cattiva l'americano del Real quando è uscito dal campo. La faccia cattiva, madonna. La cosa buffa è che intanto lui mi ha spinto per primo dal rimbalzo, io ovviamente non mi sono tirato indietro, e da lì abbiamo iniziato a spingi tu, gli arbitri non vedevano niente fino a quando lui mi ha detto, se mi tocchi ancora ti ammazzo, cioè, ti metto le mani addosso, e io a quel punto lì non potevo fare altro che toccarlo. Chiaro. Chiaro, sì. Stesso è caduto nella provocazione, infatti mi ha tirato la testata. So che mi sono spaventato quando, prima di tirare i tiri liberi, Bullock mi fa, attento, perché finita la partita questo ti viene a prendere. E infatti lì mi sono proprio letteralmente fatta sotto e ho sbagliato due tiri liberi. A fine partita ho aspettato che tutti uscissero e ho mandato il massaggiatore a controllare che tutti fossero, tutta la squadra del Real Madrid fosse nello spogliatoio, quello giusto, però insomma. Sì, no, veramente, non sto scherzando, perché mi sono spaventato, questo era veramente, veramente incazzato proprio. Federico, io a Marco Mordente che si prende così paura non ci credo. Adesso racconterò a Marco una storia che credo lui non sappia. Allora, Hamilton ha giocato a Siena, sì, una stagione. Al termine di quella stagione, Simone Pianigiani va da Minucci, il suo general manager, anche attuale, e gli dice: Hamilton mi fa impazzire, ma possiamo prendere di nuovo Marco Mordente, che è stato a Siena in una vita precedente? Perché in quella posizione lì noi abbiamo bisogno di un giocatore... magari non con la fisicità di Hamilton, ma con la capacità di capire le situazioni di Marco Mordente. Esattamente quello che Pianigiani disse a Minucci dopo quella stagione. Capito perché, Marco? Questo non lo sapevo, ma tanto sappiamo che Federico ne fa sempre una di tutti. Quindi... Sono un tuo grande estimatore, lo sai, perché io credo che ci siano pochi giocatori in Italia che siano stati istruiti difensivamente come Marco Mordente, che è scuola Crespi, ovvero giocatori che cambiano la guardia difensiva in relazione al perno scelto dall'avversario, come fa Ron Artest nell'NBA. Se vuoi vedere un criterio discretivo per vedere un giocatore rispetto a un altro, guarda quelli che vanno con una guardia diversa a seconda delle caratteristiche tecniche dell'avversario, cioè che perno ha scelto, se è un mancino o un destro. Marco è uno di quelli che con l'automatico in scanner va così sulla posizione dell'avversario. Secondo me queste cose differenziano uno che ha delle belle gambe da uno che difende per davvero. Uno che difende tecnicamente per davvero. Le gambe non ci sono assolutamente. Esatto, calcolando che non è che sia la prima dote di Marco Mordente, ne ha altre, ma non le gambe, ma direi i piedi più che le gambe, sinceramente. Sì, anche la mano, a guardare la partita di ieri sera, 20 punti nel secondo tempo, 14 nell'ultimo periodo. A proposito del discorso che faceva prima, sì, no, Federico, cioè, questi sono good 20s, altro che, cioè, primi tre quarti, ok, guardiamoci, l'ultimo quarto quando si vince la partita, questo ne fa 14. Milano, a sorpresa, batte Real Madrid, è ancora viva in Europa, deve vincere ad Atene, però tutto come avrebbe detto il coach prima, lui è un vincente e Marco è un vincente. E allora io parto con una domanda cattiva, poi lascio la palla a Flavio Suardi. Marco, ma come mai fai fatica a trovare, hai fatto fatica a trovare minuti in questa stagione milanese? In tante partite ti abbiamo visto fare dentro e fuori dalla panchina in maniera anche un po' misteriosa. Qui ma è vero o no? Vero o no? È capitato soprattutto in alcune partite dove avevo trovato il mio ritmo. Sono noioso, ma tutti sanno che il mio ritmo passa da un cazzotto, da una palla recuperata, da una cosa che non si vede né nelle statistiche né così visibile agli occhi di tutti. E alcune volte è capitato, purtroppo in quel momento lì c'era qualcun altro che aveva fatto un canestro che doveva restare dentro per scelta tecnica. Però sono contento perché nonostante questo vengo apprezzato per quello che sto facendo. E anche ieri, ad esempio, in una partita particolarissima sono stato veramente protagonista per un cazzotto, comunque perché abbiamo cambiato la partita, il volto della partita attraverso l'intensità fisica, l'atteggiamento, la voglia di crederci fino in fondo. Marco, si parla sempre di partite che fanno girare una stagione. Quella vittoria vostra con il Cesca un po' di questo effetto l'ha sortito assolutamente, direi. Ma il problema di Milano è che poi è tornato indietro e poi adesso ci riprova con il Real e speriamo che l'abbrivio sia quello giusto. Però mi sembra ancora una squadra che deve trovare una faccia precisa e che non ha le idee chiarissime a livello dirigenziale. Questo lo dico io, non lo può dire Marco Mordente. Però Marco, può essere ieri sera una partita di intensità emotiva pazzesca, no? Di quelle che piacciono a Milano, di quelle che fanno innamorare Milano, però ci vuole un sequel a questo. Giocate con Biella, è una gara importantissima per il vostro campionato. È vero, noi abbiamo fatto quella partita col Cesca che ci ha dato grandissima energia e poi ci siamo forse a distanza di una settimana, a 10 giorni, ci siamo un po' rilassati. Perché comunque questo è un gruppo fantastico che ha tanti lati positivi, ma forse quello viene fuori di più come aspetto negativo è l'ingenuità, cioè che qualche volta siamo un po' troppo fessi e partite importanti che ci possono veramente cambiare la stagione, non so, in mente in casa con Roma, in casa con la Fortitudo che dovevamo prendere per andare diretti nel Final Eight, le giochiamo con ingenuità e quindi poi facciamo un passo indietro, dobbiamo iniziare, dobbiamo giocare brutti, sporchi come ieri per ritrovare fiducia, per capire quello che siamo. Spero che veramente sia finita questa fase e che tutti si rendano conto che bisogna essere sempre lì, ogni partita, pur giocando come abbiamo fatto ieri, cioè che tecnicamente erano veramente brutti, ma anche contro il Cesca tecnicamente brutti, però con grande intensità. Sì, ma anche perché a Milano piace così e questo bisogna metterselo in testa. A Milano piacciono brutti, sporchi, cattivi e vincenti. Prima di salutare Marco Mordente, abbiamo un ascoltatore che vuole parlare con te, chiama da Treviso, guarda un po'. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno, è un piacere. Io sono tornato al Paraverde solamente quando è tornato a Milano, 2 domeniche fa, quando era. Sì. Solamente per vedere Marco, non c'era altro motivo. Tutto quello che ha detto lui, io spero che non lo metta in atto a Milano, altrimenti vincono loro quest'anno. Basta ricordare la palla recuperata in finale, che è stato uno spot poi anche su Sky per un bel po' di tempo. A Treviso, non so se vi ricordate quel gesto di esultanza che ha avuto Marco. Sì, sì, sì. Ecco. Solo una piccola cosa, a me è sembrato che Marco per la squadra Benetton e per i compagni di squadra fosse il massimo, però non mi sembrava avesse un grandissimo feeling con la società, anche perché una volta mi ricordo, ho visto a Treviso lì all'Inghilada, mentre facevano delle foto per gli sponsor, è il primo anno che c'era Marco, c'era il signor Cirelli che ha fatto il malanno grosso poi, faceva il simpaticone, faceva tante battute e ha fatto una battuta su Marco. Ha detto: guarda chi noi mandiamo gente come Mordente in nazionale, e ha fatto un po' una battutaccia che a me non è piaciuta e Marco ha risposto con un po' con una smorfia. Ma magari solo un episodio, magari solo un episodio. Adesso sentiamo Marco Mordente cosa dice. Non ho capito benissimo cosa è accaduto quella volta, che No, che Cirelli ha detto, avrebbe detto, dice il tuo fan di Treviso, Vincenzo, avrebbe detto: guarda cosa facciamo, mandiamo anche giocatori come Mordenti in nazionale e tu devi aver fatto una faccia. Cirelli ha detto questo. Sì. Tu... foto per degli sponsor, per la Volvo, mi ricordo. Sì. Vabbè, ma chi conosce il personaggio Ciro sa benissimo che su ogni cosa che dice bisogna star lì a pensarci bene, perché comunque è un personaggio abbastanza particolare, quindi ne dice mille, ne pensa 10.000, cambia idea velocemente. Non mi sembra una cosa così determinante. Insomma. Esatto, determinante, anche perché fortunatamente ero ritornato in nazionale con una stagione abbastanza intensa con Reggio Emilia, quindi prima di arrivare a Treviso. Quindi la cosa finisce lì, ma con molta leggerezza, ecco. Senti capitano, ti alleni a 100 metri in linea d'aria da dove siamo noi a trasmettere in questo momento. Uno di questi venerdì ti aspettiamo qui, Ah, molto volentieri, molto volentieri. Bene, appuntamento pubblico preso, così allarghiamo il nostro Wall of Fame. Oggi appendiamo Federico Buffa, la prossima volta Marco Mordente. Grazie, buon lavoro Marco. Grazie a voi. In bocca al lupo. Palla spicchi. Ecco che torniamo, sempre con noi Federico Buffa, oggi nostra guest star. Giovanni da Milano invece è un ascoltatore in linea, 800240024, poi andiamo con i messaggi che Flavio Suardi sta monitorando. Giovanni, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti. Io volevo fare una domanda su Milano. Sì. Premessa, io sono un vecchio tifoso della Teorema Rese, che poi era diventata Bris Milano, e ai tempi ero appassionatissimo, abbonato, eccetera, lo seguivo. Poi ho perso un po' di vista il basket e ultimamente mi sono riappassionato a Milano. Ecco, vorrei una risposta da voi, che siete tra i massimi esperti, e vorrei chiedermi quali sono gli schemi di Milano, cioè chi è il centro, chi sono le guardie. Credetemi, io ho visto le ultime due partite di Milano e non ho capito niente, cioè non ho capito quali erano gli schemi, non ho capito... l'altra domanda è... chi fa la campagna acquisti di Milano? Cioè, da dove arrivano questi stranieri? Mi sembravano più azzeccati i vecchi Danny Vrains e Adrian Dantley. L'hai detto due zoppi, però. No, non ho detto due brocchi. Allora andiamo sui Derrick Middleton, eventualmente. Però mi sembravano più azzeccati rispetto a tutti quelli che ho visto negli ultimi. Nell'ultimo anno e mezzo, diciamo, a Milano. Sì, grazie a lei, Giovanni. La squadra la fa Lucio Zanca. Comunque, sugli stranieri, secondo me, non so se Federico se sei d'accordo, il fatto la querelle legata a Jumaine Jones, Milano l'ha pagata cara e salata, perché probabilmente avrebbe avuto un altro tipo di giocatore. Adesso ha Mike Hall, che probabilmente non ha le stesse caratteristiche di Jumaine Jones, e questo ne ha un po'... Poi si chiede a Hawkins di fare il leader quando non lo sarà mai in vita sua, perché né tecnico né emotivo di questa squadra. Però il punto è che, scusatore, tifoso della Teorema Rese, a me è venuto subito in mente Vrains, no? Che era comunque un giocatore arrivato dall'NBA. Adrian Dantley non ne parliamo neanche. La verità è che quei giocatori qui non li vediamo più. Ma neanche dipinti. Cioè, non c'è paragone. C'è un'offerta 10 volte superiore, ma di una qualità 10 volte inferiore. L'NBA all'epoca lasciava andare molti più giocatori e quindi erano più facilmente prendibili sul mercato europeo, ancorché il dollaro fosse più forte di quello che è adesso. Ma oggi l'offerta sono questi giocatori qui. Quello che Milano non si è sentito di fare è fare una scelta con una star. Cioè, wow, di pigliare un giocatore internazionale di alto livello. Sai che a Milano piacciono le stelle, è inutile girarsi. A Milano vogliono la stella in un contesto operaio. Bravissimo, esatto, è così. E secondo me prima o poi comunque da lì passano. Sai che Milano poteva seriamente prendere Stephen Marbury? Non ho dubbi, perché lui è pazzo abbastanza da dire che ci vuole venire. Sì, ma voleva venire. Signori, benvenuti nel mondo di Steph, se viene, cioè è un personaggio piuttosto particolare. Adesso non viene più perché Milano pare non fosse particolarmente interessata. Benissimo, comunque Steph ne risentiamo parlare, perché la sua esperienza italiana venendo a vedere il fratellastro giocare è stata straordinaria. Ecco, non gli hanno detto esattamente che non sempre al 27 del mese arrivano tutti, non gli hanno detto esattamente come fischia Facchini, non gli hanno detto esattamente cosa può succedere al pullman della tua squadra, tutte cose che imparerà magari col tempo, perché gli americani sono bravi a firmare il contratto, poi vengono e si accorgono che il mondo è un po' diverso da quello che gli avevano prospettato. Certo. Cioè vogliono i soldi americani in un ambiente all'americana e non va così. Certo, ma guarda la fortitudo a tre americani che vanno per conto loro e non sono Stephen Marbury, non sono Adrian Dantley, non sono Danny Rains, sono tre buoni buoni, discreti giocatori, o però, quello che volete. Come diceva Sabatini dall'altra parte del fiume, poi però li allena Dommazzi, eh. Senti, no, però è, non è difficile prendere, ovviamente non a quel livello americani bravi, però sono ragazzi che pretendono che l'Italia si adatti a loro. Sì. Io voglio un americano, magari non così bravo, però che si adatti al pianeta su cui è sbarcato. Questa è la cosa difficile. Ovviamente, avete visto come sta andando con Boykins. Boykins comunque resta uno che dice: c'ho mio figlio che non sta bene, io vado negli Stati Uniti anche se giochiamo domenica. Poi è venuta fuori quell'azione del reintegro e tutto quello che ne è conseguito. Hanno delle altre abitudini e poi valgono i soldi che gli si dà, ovvero sia Gianero Pargo, che era il sesto di lusso di New Orleans l'anno scorso, vale i soldi che gli vengono dati. Io li darei probabilmente a Josh Childress, però ugualmente quelli che prende Josh Childress all'Olympiakos sono dei soldi fuori portata, secondo me, per il mondo contemporaneo europeo. Non sono dei giocatori che cambiano così tanto il contesto. Una volta si giocava a due giocatori americani, allora sì che Josh Childress fa la differenza. Certo. Ma in questo contesto non do 3 milioni di dollari a un giocatore così. Ma no, ma perché vedi, tu prima hai citato Joe Barry Caron, parlando con il coach, con Golden State lui andava lì, giocava con la faccia annoiata, appena alzato dal letto, e faceva i suoi 20 e andava a casa. Nei primi due quarti andava a casa. È arrivato qui in una squadra in cui D'Antoni e Meneghin erano i leader e lui si è adattato a quella squadra. Totalmente, e ha giocato una pallacanestro che non abbiamo mai visto dal punto di vista tecnico. Eh sì, quello sì che faceva la differenza. Un altro contesto, squadra con grandi abitudini, che si allenava bene, aveva un leader in panchina come Peterson, in campo come D'Antoni, è chiaro che si è adatto al gruppo, anche se tutti gli altri messi assieme non avevano mai guadagnato quello che lui ha guadagnato in due stagioni NBA. Cioè Shane D'Antoni, due figuranti NBA, lui la prima chiamata assoluta del draft, viene qua e gioca come dicono Shane D'Antoni. Poi McAdoo, storia che si ripete. Certo, ma beh, lì era un capitolo a parte per tutti. Era un'altra storia. Un'altra storia. Dunque abbiamo Alberto, provincia di Milano, buongiorno. Alberto da Desio, buongiorno. Desio. Allora, a parte ieri sera purtroppo non ho potuto vedere la partita del Milano contro il Real Madrid, però sono reduce da 3 giorni fa da un rientro di Madrid passato con la mia famiglia e ho avuto la splendida fortuna di vedere dentro all'interno dello stadio di calcio del Real Madrid la splendida vetrina dei trofei del Real della Pala, del vecchio Real della Pallacanestro. Chapeau ragazzi, perché gli abbiamo lasciato lì 3 coppe europee, Cantù, Varese e Milano dei tempi, la Simmental e quant'altro. Dopodiché il pomeriggio del giorno 3 di gennaio, nel vari riposi del dopo camminare dei musei, mi sono visto con una telecronaca veramente strepitosa, nulla togliendo ai commentatori italiani che sono veramente bravissimi, ma con un'energia e con una voglia, un Real Barcellona contro un Tau Ceramica, vinto agli ultimi 2 canestri 74-70 dal Real Ceramica con un Gianluca Basile stratosferico. Grazie. A lei. Tiri da 3 veramente impossibile, da 12 punti di distacco che aveva. Ma grosso modo, caro Alberto, grosso modo il Baso lo conosciamo e non da ieri, insomma, non ha cambiato abitudini e non ha neanche cambiato il feeling con quelle partite, perché sono le sue partite quelle che lui sente più di ogni altra. Sentiamo anche Giancarlo da Bologna, buongiorno. Buongiorno Giancarlo da Bologna, tifoso Virtus. Intanto faccio i complimenti alla trasmissione per un motivo molto semplice, che sentir parlare di basket o lo senti in quell'ora su Radio 24 o così, o lo vedi su Sky, se no sembra sparito completamente da tutte le televisioni. E noi come per magia lo facciamo riapparire. Sì, no, ma è una cosa scandalosa, anche perché il pietismo del calcio secondo me andrebbe un po'... Sicuramente il basket potrebbe in questo momento, anche se non siamo a dei livelli eccezionali come basket, però insomma secondo me è un'ottima alternativa a livello sportivo. Io telefonavo per questo, semplicemente un parere, io sono tifoso Virtus da oltre 20 anni, quindi la seguo molto e sono abbonato anche quest'anno. Un vostro parere su quello che sarà un po' il girone di ritorno della Virtus Pallacanestro, ma un vostro parere che sia molto sincero per la qualità esatta che esprime questa squadra, ecco. Giancarlo, adesso glielo faccio dare da Federico Buffa. Ah. No, no, non lo vuoi dare, Fede? Come con Golden State? No, no, molto più credibile rispetto a Golden State, però obiettivamente è una squadra molto condizionata da Boykins. Vediamo che Boykins, se e come Boykins gioca il giorno di ritorno. Se e come Boykins gioca il giorno di ritorno, intanto è tornato a differenza di Blizzard e giocherà. A me la Virtus come costruzione piace. Cambiato ovviamente l'allenatore in corso, è arrivato Bonicioli, bisogna vedere anche quali rapporti Bonicioli ha con il suo playmaker, quale finisce. Anche come per esempio c'è una diatriba sul ruolo di Charlotte Ford che Bonicioli vede più da ala forte che non da centro, quindi si può anche, bisogna vedere il girone di ritorno. Io sono d'accordo con Federico sul fatto che Boykins sicuramente è l'ago della bilancia, è inevitabilmente quello. Però insomma vedremo anche poi Bonicioli Zorzi come decideranno di far giocare questa squadra. Certo che non si fa mancare niente a Bologna. No. Rimaniamo a Bologna allora. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Non faccio i complimenti per essere più rapido e lasciare più spazio. Grazie. Domanda numero uno. Io ieri ho guardato la partita di Siena. Sì. Bellissima come praticamente sempre quando si giocano big match di Eurolega con Siena presente, a parte quello col Barcellona. A me è impressionato più che altro la forza mentale, più che una questione di talento ne farei una questione di convinzione, perché a due minuti dalla fine credo che tante squadre avrebbero probabilmente non trovato la forza per crederci ancora, e invece tanto di cappello e tanti complimenti, veramente impressionante la coesione e come remano tutti dalla stessa parte, direi. Sì. Sì, sì, non c'è dubbio. Siena è questa, le manca il grande risultato europeo, ma quello vale nella pallacanestro come nel calcio, sbagli un tempo, un quarto d'ora, un periodo di gioco e ciao. No, Fede? Sono troppo amico di Simone Pianigiani per rispondere compiutamente a questa domanda, perché ogni volta che lo sento lui mi dice che è durissima, cioè... Continuare a chiedere a sti ragazzi questo livello di tensione è spaventoso. Questi qua è vero che in campionato fanno per l'80% delle amichevoli, però ugualmente il livello di tensione emotivo della squadra è straordinario. Cioè si allenano come giocano questi, se no non puoi giocare così. Sta chiedendo a sti ragazzi sempre il massimo. Hai la netta sensazione che in Italia proprio anche se si impegnassero non potrebbero perdere. Però gli sta chiedendo sempre... tutto quello che possono dare, e i momenti in cui per esempio McIntyre non è in grado di dare tutto questo, vedi le flessioni tipo Barcellona. Gli sta chiedendo una cosa quasi impossibile, però sta funzionando, e per quel grande risultato europeo credo che manchi un lungo per poterlo andare a prendere per davvero. Tu dici? Sì, perché poi ci sono dei momenti contro squadre, il Maccabi della situazione dell'anno scorso, in cui loro possono difendere contro le squadre così grosse solo riempiendo l'area a un certo punto della partita, e poi sempre incontrare una squadra grande europea che ti mette quei 4-5 tiri chiave della gara in cui tu non ce la fai più fisicamente. Gli manca un giocatore lungo, però è anche difficile inserirlo in quel contesto. Siena è una squadra straordinariamente costruita, ricordatevi che è tutto frutto del primo anno, ovvero sia... La valutazione del primo anno è la valutazione di chi ha fatto una buona squadra ma sa che mancano due giocatori. Da lì in poi hanno corretto in corsa, e la valutazione di Pianigiani e Minucci dopo il primo anno è quello che ha creato questa squadra qua. Le storie sono tantissime attorno a quella formazione, ho il privilegio di conoscerne molte, ed è una squadra che oggi ha comunque questa facilità ad essere pilotata emozionalmente dal suo allenatore, a non abbandonare mai la partita. E sono tutte importanti in questo sistema. Tu hai detto, sono molto amico di Simone Pianigiani, magari una valutazione che non so se vuoi dare, però è un top coach a livello europeo in questo momento. Simone, ragazzi, non scherziamo. No, perché sai, parliamo di Messina, Scariolo, che sono tutti nostri. E se cambiasse, posto con Messina, Obradovic, e se cambiasse posto con Messina l'anno prossimo? No, ti dico questo perché secondo me in questi discorsi, a questo livello, è sempre molto sottovalutato Pianigiani. Beh, Pianigiani è stato trattato come Gattuso dal Milan da Galliani, e cioè Galliani ha preso Gattuso, l'ha tenuto nella stanza dei trofei e sembrava Milan Steaua dell'89, cioè il risultato si sapeva prima di entrare. Pianigiani ha avuto lo stesso trattamento da Minucci, l'ha tenuto lì nella stanza, sono meno trofei ma l'emozione può essere la stessa, e non l'ha fatto uscire finché Pianigiani non ha esteso il contratto. Cioè ci sono delle situazioni in cui ci sono dei giocatori o degli allenatori che non puoi permetterti di perdere, ed è più o meno quello che è successo. Palla spicchi. Eccoci al rush finale, sempre con noi Federico Buffa. Flavio, abbiamo un sacco di messaggi. Sì, davvero tantissimi. Bisogna veramente andarli a cercare. Allora, questo è interessante, secondo me. Boston dice: un ascoltatore non vincerà più perché, secondo me, non hanno più fame e non hanno più posei. Posi conta tantissimo, sulla fame non sarei così convinto. Sulla fame credo ci sia, Posi però francamente no. E sempre su Boston, Giacomo chiede: se la stagione dei Celtics dipendesse dai o dal veterano che inseriranno nel roster ora, e parla di Marbury, di Horry per esempio, non so se sono affari fattibili. Beh, o tutte meno. Tutte e due fattibilissimi, sono completamente disponibili l'uno e l'altro. Credo che però le idee di River siano altre. Tutti questi qua volevano prendere Antonio McDyess. Antonio McDyess faceva la totale differenza sia a Boston che a San Antonio. È stato sul mercato mezz'ora, poi di fatto è tornato da dove veniva, però c'è una finestra di un mese aperta su McDyess. Lì si sono giocati molti dei destini della stagione. McDyess cambiava la vita sia a San Antonio che soprattutto a Boston. Senti Fede, non ho seguito bene, ma la follia di Detroit che ha lasciato Billups per Iverson? Eh no, non devi ragionare come GM alla milanese, eh? Eh no, noi qua facciamo il calcolo sempre sulla prossima mezz'ora, gli americani so. E non si retrocede, come direbbe Pianigiani. E quindi loro vogliono mettersi nella condizione nel 2010 di partecipare alla corsa all'oro al Klondike, e sì, però partendo da una base molto forte, cioè da Stakey, Prince, vediamo come viene fuori Amir Johnson, avendo 35-40 milioni di dollari da spendere, ovvero sia potendo prendere due stelle NBA da inserire su un buonissimo contesto, e in più riescono a essere competitivi nel frattempo. Invece secondo me Dumars ha fatto una roba favolosa da un punto di vista di management, va letta in un contesto NBA. Resto competitivo, cioè lotto per le prime quattro posizioni, ma intanto mi porto nella condizione ideale fra due anni di poter ancora migliorare. Questa è estremizzata, io capisco New York, capisco la corsa all'oro, però quando hai una squadra da titolo come Detroit con Billups, adesso non hai più una squadra da titolo immediato, Detroit con Iverson. Sì, però Dumars dice titolo, bravo, tu da qua a Milano, al Calduccio, gli studi del Sole 24 Ore, non abbiamo vinto niente in questi anni, abbiamo vinto tante finali magari o di conference o semifinali di conference, però noi non siamo mai riusciti negli ultimi anni ad arrivare secondo loro al livello che la squadra gli avrebbe permesso, e quindi gliel'aveva giurata Billups e ha detto: questo qua è il primo che mando via, e il secondo è Rashid Wallace che ha il contratto in scadenza. Però questo è il particolare: per Billups erano esposti per molti anni, mentre Iverson li blocca per un anno solo, e Rashid Wallace è il prossimo, il contratto va in scadenza. Bisogna sempre ragionare così nell'NBA. Secondo me invece questo è un mossa di mercato di un altissimo dirigente. Un altro sull'NBA: quando potrò vedere ai vertici i miei Kings? Non l'ho inventato, no, se davvero è come, sostanzialmente come presentarsi al lago di Loch Ness e dire: ma il drago c'è? Ma ha detto che c'era. E quindi Gino deve aspettare ancora. Però per un po'. Capisco, come tutte le squadre californiane mi sono nel cuore, capisco, c'è quell'attimo d'attesa. Adesso dan via Brad Miller, vediamo chi viene per Brad Miller. Ce n'è anche un altro che vedo lì, Flavio, su Brandon Roy. Ho capito bene, c'è davvero Federico? Sì, è qui dall'inizio della trasmissione. Vorrei chiedergli dove può arrivare Roy. Mi sono follemente innamorato cestisticamente di lui. Sei Andrea. In ampia e significativa compagnia, tra cui colui che vi sta parlando. Penso che Roy sarà un giocatore che porterà una squadra al titolo, magari quella. Nel senso che, come spiegava in maniera mirabile The Voice, ovvero sia la pallacanestro dietro un microfono, Flavio Tranquillo, quando vedi un giocatore che gioca così lento, come che sa aspettare così tanto quello che succede, sia quando è marcato individualmente, sia al momento della partita, ti accorgi che è uno che è nato imparato, ovvero sia che ha nella pallacanestro nel suo DNA, ha un modo di giocare che lo differenzia da tutti. Sai, come il grande centravanti che aspetta quell'attimo che ti permette di far sdraiare il portiere e di mettere la palla nell'angolo. Saper aspettare nello sport, se sei ad altissimo livello, aver controllo dei propri nervi fa la differenza. Tim Duncan è il miglior difensore nell'NBA, non salta le varie della gazzetta. Ce n'è ancora uno su Washington e poi, Carlo, andiamo dagli ascoltatori. Senza il contratto monster di Gilbert Arenas sarebbe molto futuribile e con ampio spazio salariale in vista del Big Bang, dice. Washington è una situazione un po' particolare, stanno cercando in tutti i modi di riattare Gilbert Arenas, che cioè, vi ricordate Raul che dormiva nella camera ipoebarica, perché secondo lui con l'ossigeno ai 2000 metri in montagna si migliora la circolazione del sangue, la percentuale di globuli rossi. Arena sta cosa l'aveva inventata due anni prima, lo chiama dilettante, amator, che cosa stai facendo? Io queste robe le facevo prima che le inventassero. È un soggetto particolarissimo, lo vogliono rimettere in piedi per cederlo, per far vedere, tipo Elton Brand, fai fare 5 partite, avete visto che giocatore? Prendibile, no? Ai Kings. Ecco, per esempio ai Kings, dove arriverebbe tra due ali di folla probabilmente, per cercare di creare spazio salariale, perché Washington ha invece una signora base invece su cui lavorare, molto meglio della classifica che esprime. Francesco da Roma, poi Roberto da Siena, poi salutiamo la compagnia. Francesco, buongiorno. Buongiorno, scusate, vi riporto su una cosa un po' più provinciale, un po' più... Assolutamente, schema libero. Sono 54 minuti, non si è ancora parlato un secondo della prova di ieri della lottomatica. Lo facciamo. Avete parlato di Carraretto, avete parlato di Mordente, e con Mordente io vi segnalo la prova di Datome, che purtroppo ha sbagliato il tiro libero, che forse avrebbe potuto dare la vittoria alla lottomatica contro una delle squadre che si candida a entrare nella Final Four, sicuramente. E quindi volevo ricordarvi, ecco, e la notizia che ancora mi sembra non abbiate dato, che Gentile è il capo allenatore fino alla fine della stagione, con l'opzione per il prossimo anno. Sono riuscito a convincerlo, perché dopo tante partite vinte continuava a dire questa è l'ultima, invece alla fine l'hanno convinto a rimanere in panchina fino alla fine dell'anno. In campionato è il 100% di... ha una media, una percentuale migliore di Pianigiani. Comunque Roma ha fatto bene a convincere Gentile. Roma è un raro caso forse di giocatori, di squadra che gioca per convincere l'allenatore a restare al suo posto fino alla fine della stagione. Ieri ha perso una partita non così determinante alla fine per il suo cammino. Da Tome, se faceva quei tiri liberi, fa tutta la differenza del facendo, mondo. Però credo che si stia finalmente affermando in maniera anche abbastanza convincente come giocatore di livello. Ecco, magari non sarà una superstar, però sta... Questo è il limite di Siena. Il suo vivai ha prodotto dei signori giocatori, ma loro non hanno mai trovato una collocazione ai loro gioielli, a cominciare da Vitali, nella loro sistema di pallacanestro. È l'unico limite. Strano, è stranissimo. Hanno prodotto 3 o 4 giocatori di livello nazionale alto e non li hanno mai poi valorizzati. Forse perché non sono di livello assoluto? Beh, secondo me Vitali ci sta. Vitali sì. No, ma poi la cosa strana è che Pianigiani è uscito da lì, no? Sì, sì, la e cosa li adora normale, i suoi ragazzi. Appunto, eh? La cosa normale è che si porti dietro dei giocatori. Evidentemente è una questione di sistema, come dice Federico. Senti, ma rimanendo a Roma, Allen Rey che fa sto fiasco così? Non lo doveva mai prendere. Mai, eh? Mai. Soprattutto con quell'allenatore lì. Rimaniamo a Siena, Roberto. Oh, buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, intanto, no, non per polemizzare, per lo Toscani non siamo un po' polemici, ma detto all'ascoltatore di Roma di prima, insomma, non so il palmarès di Nando Gentile, ma quello di Pianigiani, tutto rispetto, 2 scudetti, una fila sport. Ed è subito Siena, eh? È subito palio. No? Certo, Siena, tifosissimo Menzana, storico da Cosmelli, eccetera, eccetera. No, la domanda è questa, però, per passare. In che scala di valori voi mettereste McIntyre e Lavrinovic a livello europeo? Federico. Sono nei primi 4 nei rispettivi ruoli. Sicuramente. Lavrinovic per me soprattutto. È quello che ha cambiato Siena. Esatto, non ho mai visto un giocatore così decisivo su tanti, tanti lati del campo, perché comunque un giocatore che tira così bene da 3 punti. E tra l'altro Siena ha 2 dei migliori giocatori del campionato che partono dalla panchina, che sono Kaukenas e Lavrinovic, che giocherebbero titolari inamovibili in qualsiasi altra squadra. Sono costruiti in un modo magistrale. Siena è costruita per i momenti della partita, mentre altre squadre costruiscono magari a livello di primi 5. Siena è costruita immaginando una partita, cosa succede da Lal, chi entra col secondo gruppo, chi è il leader emotivo e tecnico della terza squadra che entra, cioè quella che mescola il primo e il secondo quintetto. È una squadra studiata per i momenti della partita, perfettamente costruita. La Vinovic salta l'oceano? Piace dall'altra parte, però è il classico lituano che ha la doppia dimensione, gli piace tantissimo l'Europa. Io penso che sia un giocatore che comunque, per esempio, una Washington della situazione consideri. Pensate che lì Pečarov è un giocatore che Siena ha considerato, è una prima scelta dell'NBA e piaceva a Simone. Poi lì hanno preso Lavrinovic, che avevano seguito già dall'anno precedente, quando hanno deciso che non dovevano prendere un giocatore alla Baxter, che per il loro sistema era complesso, e sono andati invece per questi giocatori di movimento nella versione, specialmente quando scendono col quintetto. E lì è veramente un trattato di pallacanestro, come Simone allena Messina, cioè sono degli allenatori che veramente hanno controllo della partita per 40 minuti. Senti Federico, abbiamo 30 secondi per chiudere con una domanda banale, però come tu sai, per i tifosi NBA italiani, la Juventus sono i Lakers, no? Allora facciamo un regalo loro, dove vanno i Lakers quest'anno? Lo anche a me, perché e lui è giallo viola. Sì, lui sì. Sì, eh? Sì, sì. Sei cresciuto negli anni 80, eh? Sì. È lì, devi scegliere una delle due, forse col Doctor una terza, eventualmente Filadelfia. Ma io da piccolino avevo la canottiera dei Lakers. 90% degli addetti alla lavoro dice che in questo momento sono la squadra per vincere. Io non faccio parte, non so se sono addetto al lavoro, ma non sono di quel 90. Nemmeno io. Mancano dei pezzi, ci sono dei vuoti di sceneggiatura, hanno sono costruiti in maniera atipica. Non lo so, sono molto deboli difensivamente in due o tre posizioni del campo. A livello di 12 contro 12 presi individualmente non c'è nessuno che va vicino. Hanno una squadra apparentemente più forte dell'anno scorso, ma secondo me non sono una squadra a titolo. Però il problema è, ok, ma allora chi lo vince? E se fosse arrivato il momento del 23 del Lago? No. Il 23 del Lago è un giocatore che su questo gnocco minerale che ruota attorno al sole non si è mai visto, mai, neanche vicino. Non puoi mettere Karl Malone dentro Magic Johnson e viceversa. Così disse Federico Buffa. Falso sprach. Grazie Federico. A voi un piacere. Ti aspettiamo presto. Grazie Flavio Suardi. Ciao, alla prossima. Gigi Borghi in redazione, Pietro Lacorte in regia. Buona giornata a tutti.